Radio 24 Reportage. L'auto e Torino, una capitale da museo? Di Paolo Piacenza. C'è un'identità di Torino Capitale che non può sfuggire alla visita del Capo dello Stato. Una identità le cui radici sono collocate proprio nel momento in cui Torino perse il suo ruolo politico nazionale, nel 1864. E allora, per reinventarsi un futuro, i vertici della città scommisero sull'industria. E Torino, promossa anche all'estero con un opuscolo in più lingue che rappresenta una delle prime manifestazioni di moderno marketing territoriale, divenne protagonista in una trasformazione che la portò di lì a qualche anno a diventare la capitale italiana dell'auto. Non è un caso dunque che il 150enario dell'Unità coincida nella città della Mole non solo con la riapertura del Museo del Risorgimento, ma anche con l'inaugurazione del nuovo Museo dell'Automobile, nato proprio per il centenario dell'Unità nel novembre 1960 grazie all'opera di Carlo Biscaretti di Ruffia, da cui prese il nome. Il museo rinasce oggi inaugurato dal presidente Napolitano con il nuovo titolo di Museo Nazionale dell'Auto e soprattutto con una nuova veste, frutto della rivisitazione architettonica di Cino Zucchi e dell'allestimento creato dallo scenografo svizzero François Confinot. 4 anni di lavori, 33 milioni di euro spesi, di cui 11 per l'allestimento interno, raddoppio della superficie che raggiunge quindi i 19.000 metri quadri. Un museo tutto nuovo che diventa il punto di partenza per un viaggio tra passato e futuro di Torino, tra il solido orgoglio per aver fatto la storia industriale italiana dopo aver fatto quella politica e le incertezze che si delineano all'orizzonte. Ci facciamo accompagnare sala per sala da Giuseppe Alberto Zunino, che del museo è presidente. Il percorso inizia dal secondo piano, quindi si sale con una scala mobile, si arriva nel piano della storia, con la genesi, quindi facciamo vedere quello che è stato l'evolversi della locomozione dal carro fino al vapore, poi al motore a scoppio, negli anni 800, iniziando addirittura prima con la riproduzione del carro di Leonardo, che è questo. L'allestimento di Confinò, per chi, come me, aveva visto il museo nella sua versione anni 50-60, è una svolta. Nella versione storica ricordo due elementi, le auto e la luce. François Confinò è colui che ha disegnato il Museo del Cinema nella Mole Antonelliana, uno dei più straordinari successi della Nuova Torino. E anche qui replica la sua idea di museo come narrazione, come affabulazione visiva e uditiva. L'auto diventa un tramite per raccontare l'uomo del Novecento e del 2000, la sua evoluzione. Si parte dagli inizi. Entriamo nell'officina, questa è la riproduzione del garage del futuro, è l'officina di fine 800, inizio 900, com'era un'officina meccanica dove si producevano le prime automobili. In particolare questa è un po' una riproduzione della prima fabbrica Fiat di Corso Dante, la storica. Qui ci saranno ovviamente le vetture di quegli anni e alcuni strumenti che si utilizzavano allora, la forgia, la mola, e c'era ancora un mix di legno, acciaio, tutti arrivavano dal mestiere della carrozza e in più nascono i meccanici con il motore a scoppio. Poi arrivano i ruggenti anni 20 delle vetture salotto. E qui arriviamo, ecco, appunto al momento in cui evidenziamo come la vettura salotto era utilizzata dalle donne di quell'epoca, dalle nobili donne di quell'epoca, la vettura che andava fuori strada teoricamente, la grande e stupenda Isotta Fraschini, c'erano persino le donne pilota che incominciavano ad affacciarsi. La crisi del 29 è uno shock. In America trionfa la Ford T a basso costo di produzione, simbolo della catena di montaggio e della fabbrica fordista, appunto. Anche in Europa qualcosa si muove verso la vettura popolare. Negli anni 30 l'Europa incomincia la produzione di grande serie, questa è la Citroën Traction Avant, e qui iniziano le grandi produzioni Fiat, la Balilla e la Topolino. In Europa è stata la prima piccolissima vettura, così come la Balilla era la macchina da famiglia abbastanza utilitaria, se vogliamo. Poi la guerra, segnata dalla Jeep Willys, gli anni della ricostruzione e la grande motorizzazione, ma anche gli anni della creatività nazionale. 45-48 il grande design, e qua c'è la Cisitalia, e questo è il coupé 202 che è del 1948, la vettura forse più bella che Pininfarina abbia disegnato. Oggi è al MoMA di New York come oggetto di scultura più che di design, solo di design, e questo è un po' la macchina forse più bella che l'Italia abbia prodotto dal 1948 ai giorni nostri. Il viaggio prosegue e l'auto corre, dalla 500 alla 600, all'innovativa DS della Citroën, al Maggiolino, fino al pulmino Volkswagen degli anni della contestazione dei grandi concerti, mentre oltre Cortina trionfa la Trabant, fino alla caduta del muro. L'ultimo scampolo di tempo è il futuro. Un futuro senza emissioni inquinanti. Ma il viaggio prosegue al piano inferiore perché c'è da raccontare la storia del motore, quella delle gomme, la Torino delle tante fabbriche di auto di inizio secolo, mentre la fantasia di Confino prende il volo. Questo è uno spazio dedicato alla follia, cioè l'automobile che è diventata anche un oggetto di culto, tanto di culto che c'è qualcuno che la vive in modo ossessivo. Questo è un pazzo che si è arredato l'appartamento con pezzi di automobili. Da una automobile seria com'è la 500, questo tale ha fatto la sala da pranzo con le sedie delle auto, la cucina con delle automobili, il frigorifero, la lavatrice, persino il letto, no? Derivato dal Maggiolino. Una delle ultime tappe è la stupefacente parete della velocità, dove lungo la facciata curvilinea interna si proietta il film delle grandi corse e si collocano le meravigliose regine delle piste, conservate al museo, fino all'ultima Ferrari. Il viaggio volge al termine, resta una domanda, forse provocatoria, ma necessaria. Su Torino, sul rischio che anche per la città il futuro sia il passato e che a Mirafiori tra qualche anno vadano le scolaresche a vedere come si facevano le auto, come già avviene nelle miniere di talco graffite della Valchisone. Zunino la vede così. Ma Torino si è sempre reinventata e credo che la grande capacità dei torinesi sia quella, nonostante una è di lamentarsi sempre, l'altra però di rimboccarsi le maniche e guardare avanti. Torino è stata la capitale dell'auto negli anni 900, è stata la capitale del design perché qui sono nati e cresciuti i più grandi designer italiani. Adesso è un momento di credo di riflessione. Il mondo cambia, si va a cercare la produzione laddove costa di meno, è sempre più una produzione di grande serie, ma io penso che Torino avrà la forza e la capacità e anche la Fiat di reinventarsi ancora una volta e mantenere qui il cervello e anche una parte di produzione. Per fare un passo ancora lasciamo il museo. Ci spostiamo verso nord. Dietro al Palazzo di Giustizia, in un interno cortile di Via Cavalli, c'è un altro museo. Microscopico per ora, ma importante, in cerca di un futuro da grande. Si chiama Museo Archivio Politecnico, raccoglie cimeli e progetti della storia scientifica di quello che è un'altra realtà simbolo della città, il Politecnico appunto. A dirigerlo è Vittorio Marchis, docente di storia della tecnologia e storia dell'industria. Sottolineo l'aspetto operativo del museo, che non deve essere un tempio del passato dove uno va in adorazione di fronte a degli eventi o a delle immagini o a delle situazioni. Deve anche fornire quegli spunti per poter lavorare. Un museo laboratorio, un museo teatro, dove, prendo la metafora del teatro, per far vedere che lo spettatore partecipa alla scena. Recuperare questa partecipazione del pubblico, anche a livello di studio, anche a livello operativo, quindi non rendendolo qualcosa di altro ed altrove, perché questo è il vero rischio, ma creandolo come parte integrante di quelli che sono gli strumenti, anche critici. Così anche la storia e il passato può diventare occasione di rilancio. Oserei dire che sono moderatamente ottimista, un po' preoccupato a dire il vero, perché purtroppo uno dei difetti di questa città è quella di non mettersi in discussione. Avere saputo convivere con monoculture dall'Ottocento, dai tempi dell'Unità fino ad oggi, ha fatto sì che ci si abituasse a non essere così critici nei confronti di certe situazioni. E questo ha impedito ad altre realtà di mettersi in discussione e in concorrenza. Ecco, in un mercato libero, secondo me, certe volte può essere anche utile lasciare spazio alla concorrenza, proprio per poter sopravvivere. L'occasione in fondo c'è, perché se è vero che da un lato Torino, come del resto l'Italia, non può prescindere dalla Fiat, tuttavia anche il futuro dell'industria dell'auto torinese non passa tutto dal lingotto e da quello che Marchionne vorrà. C'è un'altra Torino dell'auto che può avere un ruolo crescente e che ha nomi stranieri. C'è la tedesca Volkswagen, che ha acquisito la Ital Design di Giugiaro per farne un polo di stile. C'è l'americana General Motors Powertrain, che sviluppa qui il suo diesel pulito e che nei mesi scorsi ha annunciato nuove assunzioni. Ma anche i cinesi della Changan Automobile, che dal 2003 ha una sede a Moncalieri. Molto dipenderà da come, in futuro, si svilupperanno questi embrioni di pluralismo automobilistico. Se avverrà, sarà un bene per Torino.